Amala. Sì, ama amica, ama la prova a cantare De Boer. Il problema è che non amano più lui. Pierluigi Pardo, sono in giro un sacco. Ciao. Un sacco di? Che piacere vederti. Un sacco di allenatori dell'Inter, eh. Cioè, ci sono falsa partenza, falsa partenza, ma ci siamo, Tony, siamo ci abbiamo messo qui in campo. Allora, no, dicevo, mi premeva dirti che ci sono in giro un sacco di allenatori dell'Inter. Una marea. No, sono sceso qui da basso. Cioè, il fatto che non abbiano, ad esempio, fatto il nome di De Luca, a me dal suo punto di vista, dà fastidio anche a me. Vabbè. Sono sceso 5 minuti fa, prima della trasmissione, qua sotto. E sentivo un paio di ragazzi snocciolare la formazione che dovrebbe essere dell'Inter. Ad quale esempio, sarebbe? Adesso non mi ricordo. Andanovic in porta. Andanovic, poi sono i terzini e già cominciano. Difesa a tre con Miranda, Murillo e Medel. Centrocampo con a quattro con Banega, Brozovic. Insomma, non mi ricordo tutta, vai, bravo, ho solo rigliato una discussione privata. Però ha parlato Frank De Boer, che ha chiesto un nuovo acquisto impossibile, questo. Abbiamo fatto, come sempre, per me è solo una questione del tempo che possiamo cambiare. Lo so che è molto difficile, perché in calcio non hai molto tempo, però è così. È l'unico che io posso fare è stare molto concentrato nel partito che sta domani contro Torino. Nel calcio, direi soprattutto nell'Inter di questo periodo, con questa classifica ancora di più. Detto questo, io non posso far altro che confermare quello che ho detto ieri. Cioè, io penso che mandare via De Boer a questo punto della stagione sia una follia. I numeri sono da esonero, sicuramente sì. È inutile, sì. Perché certamente mi sta deludendo l'Inter e mi sta quindi anche deludendo De Boer. Questo ma è se tu di prendi no, il 9 agosto un allenatore che è un marziano, perché viene da un'altra scuola calcistica, da un'altra cultura calcistica, lo metti il qui. Il peccato capitale è stato quello. Io non l'avrei preso. C'è il signor Andrea Sorrentino. Ah, da però, come va, amico mio? Ciao a tutti, bene, voi? Ciao. Bene. Noi molto bene. Senti, De Boer è il classico dead man walking verso l'ultima panchina domani sera contro il Torino. Carlo, in questi casi veramente viene buono Flaiano. No, ma davvero, mai come stavolta si può parlare di situazione grave, ma non seria. Certo. Perché noi stiamo sfiorando la farsa all'Inter, ragazzi. Io vorrei che tutti si indignassero, almeno quanto sono indignato io. L'Inter sta andando a schiantarsi, guidata non si sa da chi e non si sa perché, verso gli scogli. L'Inter in questo momento ha un allenatore già esonerato in panchina, che domani guiderà la squadra contro il Torino. Ma è un allenatore già esonerato, perché tutti del club hanno deciso di sostituirlo. Lo hanno deciso per primi i giocatori. Poi verrebbe spontanea la domanda: chi sono i tutti del club? Perché allora Pardo dice che sarebbe una follia esonerarlo. Io dico che è una follia. Aspetta, il proprietario sta in Cina, ok? Sì. Sta in Cina. L'ex presidente, che qui è stata affidata di fatto la gestione tecnica, sta in Indonesia. C'è Zanetti che è una bandiera. Come? Tuttora presidente, ti correggo. Sì, tuttora presidente, ma sì, che sì, sta sì, per sì, diventare sì, ex. Sì. Quindi c'è Moratti che fa il tifoso, c'è Zanetti che fa la bandiera e non molto altro. C'è un bravo amministratore delegato come Piero Ausilio. La domanda viene spontanea: qual è la società? La società in questo momento, a livello di scelte tecniche sull'allenatore, è rappresentata da Eric Toir. Fantastico. Il quale è lo stesso che aveva scelto De Boer il 10 agosto con scelta lungimirante. Ma la cosa più grave, ragazzi, è quella la vera follia di questi tempi all'Inter, è che Eric Toir è in uscita dal club. È in uscita da qua appunto, ai prossimi mesi appunto. E la sua uscita dipende dal praticamente per una serie di tecnicismi finanziari, più lui rimane, più incasserà quando uscirà. Quindi in questo momento ha tutto l'interesse a rimanere, però è uno che ha già un piede e mezzo fuori dalla porta e pensa al gruzzo da portarsi via, però incide pesantemente sulle scelte tecniche del futuro dell'Inter. Questa è la cosa gravissima. E ieri pomeriggio, secondo me, è stato anche grave che andare a fare la riunione operativa alla Pinetina con De Boer, con i dirigenti, ci fosse anche Steven Zhang, che è semplicemente il figlio del proprietario di Suning, ed è un ragazzo di 25 anni che, per carità, avrà delle enormi qualità, degli enormi degrees in America e tutto, ma ha 25 anni, viene dalla Cina ed è lì nella stanza a decidere anche lui dell'Inter. Non sa nulla di calcio questo ragazzo, non può saperne, eppure certo, è lì questo... con dei uomini operativi importanti. Non è giusto, non è bello, l'Inter di questo passo si schianterà, capite? È guarda, io sei per l'esonero, assolutamente... stai con Pardo o no? Sì. No, no, ma io, a me dispiace dare torto a Pier, ma De Boer non può rimanere ad allenare l'Inter perché non ha più la squadra con sé, quindi quando la situazione è questa in una squadra, che insisti a fare? I giocatori non danno magari, più magari se gli dai forza in maniera, se ci credi, allora il punto è questo, ci credi o non ci credi? Se ci credi e se prendi, ripeto, un marziano, perché ieri a Tiki-Taka è andato in onda un'intervista, al di là della gag della canzone, è andato in onda un'intervista su quelli che sono i riferimenti nel pantheon calcistico di De Boer, e c'è ovviamente Cruyff, e ci sono gli olandesi del Milan degli anni 80 e 90, e c'è quell'Ajax lì, insomma è un mondo diverso, è proprio un'altra storia, no? Poi il calcio, per carità, è sempre 11 contro 11, però è ovvio che se tu prendi De Boer è perché pensi che lui ti possa portare delle cose nuove. Queste cose nuove non è che te le può portare in 5 giornate o in 2 mesi o in 12 partite. Detto questo, il rendimento è sicuramente al di sotto e probabilmente non andava neanche preso, vista la fretta che c'era. Questo è il discorso che abbiamo fatto fin dalle prime puntate, sì, chiaro, di quest'anno, no? Se hai un casino da risolvere perché vai Mancini sicuro, ti molla, no? I primi di agosto, vai su sicuro, vai su una roba semplice. Telefonata, però se vai su una roba complicata, questa roba complicata la devi sostenere, gli devi dare forza. E infatti un'ora fa, ragazzi, un'ora fa, per sostenere De Boer, l'hanno mandato in conferenza stampa da solo, non c'era neanche un dirigente, esatto, vicino. Allora che segnale è? Di che stiamo parlando? Lui è stato già esonerato. Bene, verso quale linea si va? Traghetto, mica traghetto, allenatore che può poi rimanere. Se c'è Capello, allora è un altro discorso, no? Ci sono 7 teste a decidere, vai, tutte diverse. I 7 fratelli. Ci sono gli indonesiani. Quindi impossibile sapere. Come? Impossibile avere anche un'idea di chi potrebbe essere sostituto. È il caos. L'Inter è come l'animale mitologico degli antichi, l'irco cervo, metà caprone, metà un altro animale, metà cervo, ma non si capisce chi sia veramente, cosa sia l'Inter. È una cosa terribile, ma guardate che siamo in una situazione allarmante, io ve lo dico. Non sono neanche tifoso dell'Inter, ma me la sto prendendo a cuore, sì, questa cosa, perché è incredibile che l'Inter sia in queste mani, abbandonata a chi non sa nulla di calcio. E qui ci dicono intanto 800240024, ma anche gli sms al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che non si firma, che ci dice: se Zanetti avesse fatto come Maldini, forse era meglio per lui. Nel senso che poi, però, al di là adesso dei personalismi, il rapporto di Zanetti e Maldini con gli ultra è assolutamente opposto. Sì, questo è chiaro. Questo è chiaro. Come si è capito, Andrea, anche io, nella famosa dichiarazione. Ti lascio andare a scrivere del Titanic, nerazzurro. Chi è il favorito, però? Se tu dovessi oggi puntare un euro sul prossimo allenatore dell'Inter in caso di esonero. Direi Pioli. Secondo me potrebbe essere la scelta più saggia possibile al momento. Grazie, Andrea. Il Titanic è partito da Southampton, tra l'altro, questo settimana. Questo è l'attacco del prossimo questo pezzo. È l'attacco del prossimo pezzo di Andrea Sorrentino su Repubblica, che ringrazia e lascio il traffico. Tutti convocati. Qui è altro che Ciupiti di Popoviello. Convocati. Adesso siamo andati bene, adesso è una falsa partenza, tutto a posto. 800240024 349-238-6666 per i vostri messaggi. E io ho convocato, sai chi? Chi? Un tifoso dell'Inter, poi gli faccio anche una domanda di Formula 1 naturalmente, ma Leo Turrini non può mancare. Allora, come stai, vecchio Turrini? Allora, C'ho l'accento parmigiano in tuo onore. Allora. Saluto subito Pardo, perché è un sacco di tempo che non lo sento, ma vorrei aggiungere il traffico, l'avete appena dato. Abbiamo dato, sì. C'è una coda sulla Piero Cormano. Sì. Uh-huh. È la famiglia di De Boer con tutti i furgoni che con, si con le tre figlie per tornare verso Olanda, hai capito? Con le tre figlie, con le tre figlie, che lo diciamo perché lo sapesse, io non le ho viste, però tutti mi dicono che sono notevoli. Io non le ho viste. Io l'ho viste in foto. No, a me dispiace. Io non sono più competitivo su certe materie, ma a prescindere, io vorrei che voi mi spiegaste, essendo io interista, appunto, ma che cosa sta succedendo qui? Che bisogna, che se fai delle scelte forti, se fai delle scelte radicali, se fai delle scelte rivoluzionarie, devi avere una società forte alle spalle che protegga le scelte. Se tu prendi, guarda, mi viene in mente un paragone televisivo, ma lasciamo perdere. Se tu prendi qualcosa di nuovo e lo vuoi proporre, devi difenderlo. Non è che alla prima difficoltà o alla seconda difficoltà, forse avete capito di chi sto parlando. Chi lo difende? Lo abbiamo sentito anche prima Sorrentino. Oggi De Boer, è andato in conferenza stampa da solo. Ma rimane il fatto che l'Inter, nella condizione dell'Inter, cioè quella di una grande squadra, con una grande storia, con un passato glorioso anche recente, e con un eccellente organico, non ha tempo, non aveva tempo, non poteva permettersi una sperimentazione quest'anno. Però questa cosa il 9 agosto non la si è valutata e si è scelta una strada che è una strada oggettivamente molto, molto complessa, che richiede questo elemento, il tempo. Il tempo non c'è, in più De Boer sta facendo male, nessuno discute che la squadra non sia con lui, ma è ovvio, si vede che la squadra non è con lui. Che poi la squadra non è con lui non vuol dire che gli giocano contro. Scusa, prima della partita domenica, ma perché prima della partita? Ma perché prendete così tanti gol? E lui, ma con Mancini stavamo... più dietro, eravamo più coperti, forse dovremmo tornare a giocare un po' più coperti e arretrare, ragazzi, un po' la linea. Tu Turrini, sei con Pardo che dice sarebbe una follia non andare avanti con De Boer in questo momento. Beh, è una sconfessione di quello che hai fatto 2 mesi fa. Allora io vi dico una cosa, ho un sospetto che questi cinesi stiano aspettando ancora, perché tempo 2 settimane libera anche Mourinho con quello che succede a Manchester. Allora noi interisti ci siamo già bruciati, fumati il ritorno di Mancini, no? Mettiamo fine prossimamente anche alla carriera di Mu, da quello che capisco che ci sta mettendo del suo comunque, certo. Allo United, no, beh, io devo dire una cosa adesso da tifoso, gli spettacoli sono stati veramente deprimenti, anche quando hanno vinto contro il Southampton. E prima Pardo ha detto una cosa che mi sembra plateale, che certo non è un alibi. Io ho la sensazione che i giocatori questo allenatore non lo seguano più da un mese ammesso che l'abbiano mai seguito. Perché? Bravo. Perché ti danno l'idea, quantomeno io non voglio nemmeno cospirazioni, complotti, ricongiure, poi vi ho già detto che tornerà Mourinho, quindi insomma siamo belli carichi a pallettoni, però la sensazione che hai è che questi vadano in campo senza minimamente in considerazione le idee, il progetto, le teorie, gli insegnamenti del tecnico, e allora in casi del genere mi dispiace, ma invece bisogna cambiare e subito, senza aspettare la partita. Ma perché io l'ho vista questa conferenza di oggi, penso che siamo insomma quasi al teatro di Ionesco dell'assurdo, dato che Pardo ha studiato più di me, cioè tutti dicono ma tanto qualunque sia il risultato l'Inter manda via l'allenatore giovedì mattina, allora tanto vale che questi cinesi decidano nell'immediato, subito, hai capito? Ho detto Mancini, ce lo siamo fumati. Anche Leonardo ha vinto Coppa Italia. Ma guarda, Leonardo, io guarda, dall'inizio che lo dico, e ci sono testimoni tipo Giorgio De Luca, il nostro autore, dall'inizio che dico, prima mossa da fare, prendere un plenipotenziario che sappia di calcio, e primo nome che mi viene in mente è Leonardo. A quel punto prendi Leonardo, può essere anche lo stesso Leonardo che interviene con De Boer, lo difende e segue. Però deve essere un plenipotenziario, perché il punto è questo: anche Capello, ragazzi, anche Capello. Tra l'altro, ieri collegato alla Monte Carlo, Urbi e Torbi ha avuto, insomma, è stato molto molto sfuggente sull'argomento, come se lo so, mi ha dato l'idea che qualcosa possa esserci. Capello secondo me sarebbe una grande scelta per, certo, l'Inter, perché al nome di Leonardo serve, sempre associato serve con Cappello, esattamente, per la disciplina, serve un uomo a tutto tondo che prenda per mano la società, non soltanto la squadra, anche se in realtà in un mondo ideale l'allenatore deve fare l'allenatore, non è che deve prendere per mano la comunicazione o che deve prendere per mano la società. Però in questo momento l'Inter zoppica un po' perché ci sono troppe teste, come abbiamo detto prima, e quindi un allenatore con questa forza, al di là di quello che può dare in campo, sarebbe veramente molto utile come personalità. Detto questo, ripeto, a me dispiace un casino. Io penso che forse ci stiamo perdendo qualcosa. Se De Boer andrà via, come sembra abbastanza scontato, dovrebbe vincere bene domani contro il Torino. La vedo secondo dura. Me per salvare la panchina, e la vedo dura, durissimo. Anche visto l'avversario. Fra l'altro c'è questa storia di Mihajlovic che affronta la sua ex squadra, amico di Mancini, che può. Vabbè, ma insomma, al di là di questi esatto, ostacoli del cuore, diciamo così. Io credo veramente che non l'abbiamo capito. Poi forse in realtà c'ha poco da insegnare, non lo so. Però ribadisco, è una scelta talmente forte che se la fai la devi non fare. Non l'abbiamo la capito, lui non si è fatto capire. Fino a Natale la devi sostenere. Poi a Natale sei dodicesimo, cambi. Senti, Leo Turrini, un'ultima cosa invece. Ragazzi, provate a immaginare la situazione. Uno che è interista e ferrarista contemporaneamente. Bravo, in questa fase che storica, momento è? Ma cosa c'è? La di peggio, hai capito? C'è, non so, che intervista parlo, ecco. Senti, mi dici una cosa, ma Hamilton ha qualche chance? Perché io ho capito che ti fa Hamilton. Esatto, e poi io volevo aggiungerti appunto, non è che all'altro invece, al biondino, viene il braccino, come si dice nel tennis? Beh, allora, diciamo che se Pardo ricompare ai box come a Monza, il mondiale si fa per... No. Perché avete visto già che Lindsay Vonn si è materializzata in Texas, no? Sì. Era vestita, che sembrava appena uscita, ma non voglio dire nulla, ma lasciamo stare. E il nero si è talmente eccitato che per una volta non ha sbagliato partenza, è stato perfetto, ha vinto. Beh, a questo punto... C'è il caso Belen Iannone. Ecco, poi dopo approfondiamo, perché voglio dire, anche su questo Iannone, da quando frequenta Belen, non gareggia più. qualcuno dovrà pur darti una parola di verità in merito. Borriello non fa più gol. Borriello segna. Borriello, però di queste cose Pardo sa molto più di me. Ma per rispondere alla vostra domanda, è chiaro che Hamilton deve scommettere sulla sfortuna di Rosberg, sì, perché con 26 punti, se Rosberg arriva sempre due volte secondo, una volta terza, è comunque campione, e aggiungo, se lo meriterebbe anche, perché ha fatto una grandissima stagione. Certo. Però basta ricordare che in Malesia 20 giorni fa Hamilton era in testa, gli ha fatto crack il motore a pochi giri dalla fine. Se non era successo quello, il titolo adesso era già virtualmente del nero. Quindi insomma, mai ma dire tu, mai. Ma chi ti è più simpatico? Per Rosberg, devo dirti. Allora, io ho un'ammirazione sfrenata per Hamilton, perché l'ho visto debuttare 2007 da rookie accanto a un campione come Alonso, a reggere il confronto subito. Hamilton è veramente, non nel senso a Lindsay Vonn, un superdotato. Cioè, è un campione naturale, ma un talento purissimo per il volante, per la guida, eccetera. Però Rosberg ha avuto un gran rito quest'anno, che non ha mollato, venendo da due campionati persi, tutti di Gregario, il Valletto, il Nosotti di Pardo, hai capito tutte queste cose? E invece lui quest'anno ha avuto proprio una reazione da campione, e per questo dico che non mi dispiacerebbe vederlo incoronato. La mia debolezza, ovviamente, poi io sono un profano della materia, io sono rimasto abbagliato dall'intervista a Hamilton, perché Hamilton sia nell'intervista che nel prima e nel dopo ho avuto la sensazione di un antipatico, tra virgolette, ma in realtà carisma, di enorme spessore, di grande carisma e secondo me anche grande spessore umano. Ci fermiamo per la borsa. L'altro, ringraziando Leo Turrini. Grazie. Comunque non Ferrari a fare da arbitro tra Hamilton e Rosberg. Questo l'abbiamo capito già da un po'. Ciao Leo, grazie, alla prossima. Ciao, un abbraccio. Ciao Turrini, ascolta. Borsa. Tutti convocati. Tra poco nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. L'interista medio va quasi mai allo stadio e al massimo tripudio gioisce nel suo studio. Lo Juventino di Torino è una specie quasi in estinzione, mentre il vecchio romanista che festeggia lo scudetto non si accorge che la figlia va col suo laziale a letto. Questo paese che annona lavoro, soldi e sobrietà, ci vede uniti solo la domenica. Un gol ci devi fare. Hai conosciuto Francesco Baccini. Non ho fatto sentire questa canzone a caso e nemmeno perché tu questa sera commenterai. Io vado fra un po', vado Genoa-Milan, che è una partita estremamente interessante. L'ho fatta ascoltare, tra poco scoprirete perché. Michele, buongiorno. Buongiorno, Michele da Treviso. Io non sono né interista né juventino, né? Però... Quindi è che cosa? Milanista? Sono milanista, Hai goduto più di tutti, adesso non so quanti anni hai? 71. Ma hanno goduto molto anche gli juventini, un po' anche gli interisti, però hai goduto, dai, 71 anni hai goduto. Sì. Però sono assolutamente d'accordo con Pardo, non occorre cambiare, sarebbe un gravissimo errore cambiare allenatore dell'Inter. Quindi si va avanti esattamente così? Sì, ma lo state dicendo anche voi, lo state dicendo che è tutta la dirigenza e tutta la struttura societaria che non funziona. E perché cambiare l'allenatore? Perché è la cosa più semplice. No, sono d'accordo con lei, però come sempre poi alla fine paga l'allenatore. Questa è... Che ha le sue colpe, attenzione. Ma se tu metti un altro allenatore e la struttura societaria resta quella, guardate cosa è successo al Milan quando cambiava un allenatore. Michele, sono parzialmente d'accordo. È chiaro che la struttura societaria che non funziona, però come dice Pierluigi, la cosa più semplice è cambiare allenatore. Cosa succede cambiando allenatore? Si prende uno che ha delle idee semplici, che conosce il calcio italiano, che conosce i giocatori, eventualmente disegna una squadra elementare senza inventarsi niente di strambo, e poi vediamo se è un traghettatore oppure no. Si tratta di salvare la stagione, l'alternativa mi pare quella. Federico da Padova, buongiorno. Buongiorno, sono Federico di Palma. Intanto grazie per la convocazione. Vi seguo sempre, è stata una gran compagnia. Avrei voluto fare una domanda a Capuano, perché stamattina ascoltando il podcast di ieri, correndo, percepivo un scusa, a che ora correvi? Alle 5:15. Io ero alle 4:40, non ci siamo beccati perché ero a Padova stamattina a correre. Quello che percepivo dalle parole di Capuano era un amore viscerale per Mancini, quando in un anno e mezzo... non mi pare che abbia portato tutto questo gioco, questo gruppo, questa unità di intenti, mentre per De Burek, poveretto, appena arrivato dai 2 mesi non ha neanche avuto il tempo di ambientarsi. E quindi volevo capire da Capuano, magari me lo fate sapere voi. Ma guarda, posso provare a dirti la mia, poi Capuano tra un po' lo sentiamo anche perché a Torino e ci parla di Juve, esatto. Sinceramente io penso questo, che sicuramente Mancini è un uomo che ha vinto. E lo ribadisco, non sono tanti gli allenatori che hanno vinto. Questa cosa va detta, perché per me Mancini è un buon allenatore. Cioè, se noi lo guardiamo nel complessivo della sua carriera, stiamo parlando di uno degli allenatori vincenti della storia del nostro calcio. Quindi massimo rispetto. Detto questo, nell'esperienza all'Inter io mi aspettavo di più, ma penso che anche lui si aspettasse di più da se stesso. O probabilmente quella che è la situazione societaria dell'Inter non l'ha aiutato. Degli allenatori recenti, lo so che è una bestemmia, ma quello che ha fatto meglio secondo me all'Inter, quello che è andato un pochino più vicino a certi risultati, sono Mazzarri, che però aveva un problema enorme di rapporto col pubblico e di mancata mancata empatia, con tutto l'ambiente, certo. No? E quindi, però siamo lì, siamo lì. Stramaccioni è stata un'emozione. Ragazzi, l'Inter brucia più allenatori di un falò. Bella questa, bella, sì, bella, dai, insomma. Presente il rogo delle streghe che si fa in certe feste Halloween, cioè l'Inter è pazzesca da questo punto di vista, e lo stesso Mazzarri è stato triturato dall'ambiente nerazzurro. Anche lui, se ti ricordi, arrivò ad un momento in cui tutti quanti ci dicevamo non è possibile fare altro, perché la frattura è così ampia e così scomposta da non poter essere sanata nemmeno con una placca di titanio, no, Pierluigi? Assolutamente. Ciao, i cinesi non sono gli sceicchi, sono qui per vincere, non sono qui per vincere ma per imparare, farsi le ossa, acquisire know-how per la Cina a spese nostre, per questo mandano i 25enni. Ha ragione Sorrentino, ci scrive Elio. C'è un milanista che dice: da milanista dico che l'Inter è meglio che l'allenatore lo cambi dopo il derby di Milano, che insomma evidentemente vorrebbe andare con De Boer. Mancini allenatore vincente, Pioli neanche un campionato di Serie B e playoff, ci scrive Marco da Modena. È anche vero, Marco, però, che c'è un inizio, cioè noi l'anno scorso, per dirti, prima di vedere Sarri all'opera con il Napoli, non sapevamo chi non fosse, sapevamo Sarri, che, no, sapevamo, no, poi Pioli allenato, non sapevamo pure, se poteva avere la una Lazio, dimensione con la Lazio, male non ha fatto Pioli la prima stagione, no, la sostanza secondo me è molto semplice, cioè che il caso Sarri questo ce lo dimostra, che tante volte la vita ti sorprende, nel senso che tu non sai se sei bravo o se sarai bravo a fare qualcosa. Sarri era un ottimo allenatore di provincia e l'anno scorso ha dimostrato che il salto di dimensione, di categoria, non l'ha vissuto male. Quindi non sono completamente d'accordo con Marco da Modena. Mancini, sono d'accordo sulla parte Mancini allenatore vincente. Sulla parte di Pioli invece non sono d'accordo. Magari no, invece è pronto anche per lui, allenato squadra in un ambiente pure non semplice, pure una specie, esatto, di rogo che è quello della Lazio. Andrea, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti, è un piacere parlare con voi. Reciproco. Volevo solo vedere la situazione da un lato diverso, quella di De Boer. Quello che stiamo vedendo della società cinese è l'esempio che ci aspetterà un po' dappertutto, perché è un po' il modus operandi dei cinesi, confuso, arruffato, senza un'idea. Può essere. Hanno un modo di fare in tutta la loro vita, in tutti i lati del business, che è così. E questo saranno i cinesi in qualsiasi società che compreranno. Io non ho prove, perché i cinesi comunque insomma sono comparsi massicciamente in Italia ormai da molti anni, hanno aperto diversi ristoranti, gente che lavora molto. Non so, da un punto di vista manageriale e societario non avrei grandi esperienze. I cinesi, adesso faccio discorsi di economia spicciola, arriva Barisoni e mi ribalta magari, però io credo che la grande forza dei cinesi negli ultimi anni sia quella di avere un enorme mercato interno, cioè la Cina è cresciuta moltissimo come dimensione perché c'è una popolazione enorme, un mercato interno enorme, diciamo disabitudine al welfare all'italiana, no? Cioè l'idea, no, di tutta una serie di permessi e di piccoli privilegi per i lavoratori che, grazie a Dio, nell'Occidente ci sono, perché siamo abituati in questo modo, siamo abituati a pensare al welfare, poi in alcuni paesi, magari quelli nord europei di più, in altri paesi di meno, però insomma c'è tutta una serie di piccoli privilegi, piccole garanzie per il lavoratore, lì sicuramente no. Quindi il combinato di queste due cose, un enorme mercato e la grande quantità di lavoro senza ovviamente il welfare all'europea, ha fatto sì che la Cina sia cresciuta tantissimo. Non so dirti onestamente, certo ad oggi manca, un po' come il discorso di Pioli o di Sarri, ad oggi manca una dirigenza cinese nello sport, nel calcio, che sia vincente, mentre Abramovic sappiamo che ha vinto, gli sceicchi per esempio al Manchester City. Bisogna anche imparare a capire, e non credo che capiscano molto, incalati in questa realtà così particolare che è molto diversa, no, che da quella inglese. Serve però, serve il filtro, serve il plenipotenziario, come dici tu. Bravo. Ieri io ti dico, adesso ieri noi avevamo questa intervista a Galliani, si può dire tutto di Galliani ovviamente, no, anche lui avrà fatto degli errori, però io mi chiedo, uno come Galliani magari a questo Milan gli serve, no? Cioè se l'alternativa è far andare un ragazzino come nel caso dell'Inter in una decisione così importante, un ragazzino di 25 anni, ripeto, magari bravissimo, con tutta una serie di background dal livello di studi clamoroso. Ma il calcio è un'altra cosa, il calcio deve saperlo fare chi lo sa fare. Allora Fassone è un uomo di provata esperienza, non c'è dubbio. Galliani è un uomo che ha vinto tantissimo in questi anni. Io sono sicuro che se a Galliani viene dato un budget di un certo tipo, Galliani non è uno che i giocatori non li sa comprare. Questo, no, è chiaro, ha dimostrato. Quindi, questo poi può non essere Galliani, può essere un altro nome, così come nell'Inter può essere chi volete voi, però può essere Capello, può essere Leonardo, gente che conosca di che si sta serve parlando. Una figura di questo tipo. Claro. Traffico. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Svegliamo l'arcano, non ti ho fatto sentire prima quella canzone a caso, ma perché c'è Francesco Baccini come ospite. Che spettacolo. Ciao, come va Francesco? Ciao a tutti, come va? Come, dopo un derby così, come vuoi che vada? Anche se devo dire la verità che la mia canzone preferita di Baccini con tema rosso-blu è Genova Blues, no? Non mi basta un blu. È diventato un inno senza essere un inno, in realtà. Mi puoi anche querelare dopo questa interpretazione. Beh, questa era un po' calante, comunque. Era un po' calante. Riprova, parto. You are red and blue. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Ma sai che mi ha detto... io un po' che non vado allo stadio perché abitando a 250 km non mi riesce facilissimo. E mi dicono che la suonano solo prima della partita. Certo. Speriamo... Che porti buono. Canzone magnifica. Posso chiederti, proprio vai, facciamo un momento molto genovese. Sì. Lettera da Amsterdam, che lo diciamo per chi non lo sapesse, invece è una canzone, credo, dei New Trolls sulla Sampdoria. Ti piace? È possibile un gemellaggio musicale o no? Devo dire che Genova e Sampdoria hanno delle canzoni, anche perché sai, a Genova ci sono una serie di artisti e di autori, mica da ridere. Quindi, questo sì. C'è anche Creuso De Ma, che è una risposta diplomatica, però no certo. Creuso De Ma, ragazzi, senti, ma è tanta roba, cioè, parlando di sono delle squadre che hanno delle marcettine che si prende. Senti, ma Francesco, dopo il derby sanguinosamente e dolorosamente perso. Ma sai, stasera arriva il Milan che fiuta il primato almeno per una notte. Come si diceva in Frankenstein Junior, cosa potrebbe succedere di peggio? Potrebbe sempre piovere, infatti sì. Piove. Ma sai che invece secondo me, da un punto di vista psicologico, allora quando tu perdi un derby e hai, come io, come ho visto la squadra che avrebbe subito di rifarsi, avere una partita il martedì, cioè tre giorni dopo, è meglio che aspettare una settimana. Anche gli spotò durano di meno. Sì. No, sicuramente. Mentre il Milan, che ha appena battuto la Juventus facendo quasi un'indigestione, potrebbe essere ancora no, sui fumi della vittoria e non lo so. Poi sai, il Milan Amarassi non è che abbia avuto vita facile in questi ultimi anni. No, anche perché è successa questa cosa strana. Gli hanno dato svariati giocatori. Niang, Suso, Kučka, poi Bertolaggi pure passato lì. Noi li abbiamo restituiti come nuovi, anzi meglio. Voi li avete restituiti come giocatori di livello. Come veri giocatori, perché quando sono arrivati a Genova, Suso, Niang, erano dei punti di domanda. Cioè. Devo dire che lì Gasperini è stato veramente un genio, perché... ha trovato lo stesso Bertolacci, che ora al Milan non gioca perché è infortunato, credo. Gasperini gli ha inventato un ruolo, perché neanche non giocava mica così per Milan. No, lo so. No, certo. Ma lo stesso Suso era un panchinaro, uno che entrava tre minuti. Era più un tribunaro che un panchinaro. Sì, esatto. Sì. E quindi non aveva mai avuto spazio. Assolutamente. Quindi stasera il Genoa Milan sembra un po' Genoa A, Genoa B, perché... cioè, in mezzo Milan in realtà passava dal Genoa anche con giocatori che hanno lasciato un segno, quindi sì. Sono curioso di vedere. Poi stasera rientra Pavoletti, che per noi è tanta fondamentale roba, per me abbiamo fatto 5 partite senza Pavoletti, anche se il giovane Simeone, devo dire, è uno che ha la stoffa sicuramente, anche la grinta del padre, però è ancora acerbo, chiaramente ha dovuto sobbarcare un lavoro enorme, chiaro, di caricarsi l'attacco della squadra. Chiaro. Rientra il Pavoletto, che io spero solo che a gennaio non se lo portino via. Beh, è un giocatore che piace. C'è il Napoli che secondo me Napoli è molto interessato. Il Napoli è molto interessato perché con l'infortunio di Milik. E poi si è fatto male Milik, quindi. Magari Genoa prende Gabbiadini, dai. Ma sai che come un ex toriano che c'è stato anche al derby, sai che noi genovani siamo, non è come a Milano, che no, a Milano vedi che giocano a Milan Ghito, lo so. A Genova se uno è un passato dall'altra squadra è pesante, un po' proprio pesante. Grazie Francesco, grazie a voi, ciao. Bella partita. Io non, stasera non ti penso, ascolti Pardo, non penso te la sia facile oggi per il Milan, eh? Penso che sia una partita complicata, ma io ti direi quasi un pareggio proprio se dovessimo fare una mini schedina, perché il Genoa è forte secondo me. L'altro giorno è arrivato un po' acciaccato al derby, e il derby è una partita che spesso ha dinamiche un po' diverse, però secondo me è una squadra secondo me è più forte della Samp, sì, come dimensione, sono e credo che oggi in casa possa far bene. Poi c'è Pavoletti, poi c'è ovviamente anche il ricordo di Vincenzo Spagnolo, 29 gennaio 95, sai che nel passato ancora qualche volta c'è stato un po' di qualche scintilla, ecco, veramente ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto. Fra l'altro le società sono amiche come poche, lo ricordava Baccini, no? E poi insomma io credo che tutti l'autostrada Milano-Genova assolutamente. Ma poi quel giorno è stato uno dei giorni più brutti credo della storia del calcio, insomma quel 29 gennaio 95. Vediamo quindi se riusciamo a sentire Fabio in un minuto. Fabio? Sì, eccomi qua. Dire due cose molto semplici. Allora, io sono per l'esonero di De Boer, anche se lo trovo una persona squisita, di spessore umano, intelligente, però ho sentito tra ieri e oggi due ascoltatori di fede milanista che sono invece per tenere De Boer. Già questo è un motivo per cambiarlo immediatamente, insomma. E poi, a onor del vero, è vero che ha avuto poco tempo, però un allenatore deve trasmettere le proprie idee ai giocatori e lo si fa in 15 giorni, cioè non gli si chiede di trasmettere una filosofia di gioco in un mese, però gli si chiede di non perdere e di fare le cose semplici. Montella ha corretto il Milan in una settimana, voglio dire, non fa un gioco spettacolare, ma fa risultati. L'ha corretto prendendolo all'inizio della preparazione. Grazie Fabio. Buona giornata, ci fermiamo per il GR Pardo. Assolutamente sì. Poi c'è Mario Bartoletti. Eh beh, il maestro. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Dunque, Pierluigi Pardo, prima di andare dal maestro Bartoletti, abbiamo Giovanni Capuano che è a Torino e ha assistito all'assemblea dei soci della Juventus. Che si è detto, Giovanni? Ciao. Ciao ragazzi. Beh, intanto parlare oggi della Juve è come passare dal primo al decimo piano di un palazzo, dopo aver discusso, credo, dell'Inter e di tutto quello che succede. Ma guarda, tra le tante cose, numeri, ma insomma, che questo sia il bilancio dei record, è anche inutile ripeterlo perché è noto da qualche settimana. Tra le tante cose secondo me interessanti c'è la quantificazione che ha fatto Andrea Agnelli del vantaggio che ha oggi la Juventus rispetto a tutte le altre, perché parlando del gap che c'è fra l'Italia e il resto d'Europa e che lui ha quantificato in 10 anni, a un certo punto ha ammesso che la Juventus sta a metà strada e ha detto: noi abbiamo un ciclo di vantaggio, siamo in mezzo. Bene. Abbiamo 5-6 anni di vantaggio, di ritardo sulle big d'Europa, ma ovviamente in maniera intuitiva di vantaggio su tutti gli altri. Ecco, ho l'impressione che sia la fotografia esatta al di là di quella numerica. Siccome la Juve viene da 5 scudetti consecutivi, insomma le conseguenze sono da girare. Vengono i brividi altri no, 6. Non c'è dubbio, poi altri calcio. 6 sono 11, chiudiamo bottega. Abbiamo anche una dichiarazione di Agnelli. Non ci vogliamo nascondere e siamo estremamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto. E davanti al podio ci sono le 5 coppe degli scudetti che abbiamo conquistato in questi 5 anni e che ci hanno permesso di scrivere una pagina importante della storia ultracentenaria della Juventus. Ne, ne manca una di la Coppa Juve, la più importante. Sì, tu, però sappiamo vabbè, tutti, ma quello, quello però rappresenta, se posso, insomma, la, l'aspetto aleatorio che c'è in ogni competizione sportiva. Indubbio. E, insomma, la Juve ha vinto in questi anni perché è la società più organizzata, la società più forte, e ha costruito un circolo veramente virtuoso che la porta ad avere un bel vantaggio su tutte le altre. Al di là delle contingenze, al di là della finale di Champions persa a Berlino, cioè questa è la sostanza, è la fredda cronaca. Il fatto che la Juventus comunque ha cominciato a lavorare una decina di anni fa su, su questa struttura societaria. Lo stadio è decisivo, il fatto di aver avuto quell'area a disposizione per poter realizzare il nuovo progetto. Quindi non a caso non è un numero buttato lì a caso quando Giovanni Capuano dice abbiamo 5-6 anni di vantaggio rispetto alla concorrenza italiana. Ma questa è una costante di, l'abbiamo ripetuto mille volte Giovanni, di quasi ogni campionato europeo di livello. Lasciamo perdere la solita Inghilterra dove lì sono tutti ricchi sfondati, ma è la caratteristica della Francia, della Germania, possono permettersi di competere. Sì, ma difatti oggi si è parlato anche di questo in realtà, perché la verità è che questo bilancio del record rischia di rappresentare per la Juventus anche un limite, e Agnelli se ne è accorto, lo sa, l'ha capito già da qualche mese, e questo è alla base anche del lavoro che ha fatto in prima persona per arrivare a quella riforma della Champions che è favorevole soprattutto per le italiane e paradossalmente va contro gli interessi immediati della Juve, perché se tu porti quattro italiane fra due anni fisse in Champions è evidente che dai risorse anche a tutte le altre, mentre oggi l'unica che ha stabilità e certezza di continuità è proprio la Juve. Sulla Champions oggi Marotta è tornato ad evocare anche la neve di Istanbul proprio per dar forza al ragionamento che ha fatto prima per Luigi, però a Torino sono convinti che sia adeguata già la rosa di adesso per vincere la Champions di quest'anno. Io credo che la Juventus sia tra quelle che sia nel ristorante da 100 euro. Chiudiamo da 100 euro, poi per riuscire a realizzare la cena perfetta ci vuole anche un po' di fortuna, molta fortuna, il cuoco bravo, beccare le notti giuste. Detto questo, un anno fa ricorderete l'assemblea con la famosa battuta di Marotta su Hernanes, la pressione che Agnelli mise su Allegri, insomma è passata un'era geologica, no? Questo mi anche pare di sì. È chiaro che la partenza della Juve un anno fa era stata particolarmente negativa e quindi non fa testo, e poi si è ripresa alla grande. Ecco, quest'anno è un clima completamente diverso, nonostante questa sconfitta contro il Milan. Io penso che non ci siano grandi discussioni sul fatto che sia la favorita e che sia partita bene. Non mi aspetto neanche grandi ripercussioni. Grazie Giovanni, ciao. Grazie a presto, voi. Ti aspetto. Maestro Marino Bartoletti, buongiorno. Buongiorno, che gioia essere con voi. Che ieri mi ha mandato i messaggini notturni con Luigi Parva. Sì, perché era Luis Miguel, siamo i ragazzi di oggi noi. Vi siete messaggiati su cosa? No, c'era un momento a Tiki Taka, c'era un titolo sul Milan, ragazzi di oggi, con la linea. E c'era un po' di dibattito a Tiki Taka su se la canzone fosse di Luis Miguel, come io ho detto, vero Marino? Come sanno tutti. Qualcuno diceva che era... Noi ragazzi di oggi, noi quindi si confondeva fra Eros Ramazzotti che terra promessa una terra promessa. Sai cosa facciamo oggi Marino? Parliamo di Sanremo? No, però quasi non sei andato lontanissimo. Io oggi non lancerò gli argomenti su cui voglio chiedere un tuo parere, voto o giudizio. Non farò ascoltare allenatori, giocatori o protagonisti del gioco, vi farò ascoltare un'altra cosa a partire da questa. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco, dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Che meraviglia. Mi ricordo una versione di Guccini di Lucia San Siro, credo al premio Tenco. Allora, per essere esatti, al premio Tenco Guccini, ascoltando la versione di Lucia San Siro, capolavoro inimitabile di Roberto Vecchioni, ai lui interista, disse: però che questa canzone non l'ho scritta io. Le boiate, le ore stanche sono volate. È vero. Ovviamente serve per introdurre l'argomento Inter. Io e Pierluigi abbiamo idee diverse su questo. Per me De Boer, come si dice, come ci raccontava Sorrentino, di una situazione drammatica, è già il classico dead man walking verso l'ultima panchina. Secondo Pardo, sarebbe una follia sostituirlo adesso. Li ho sentito malgrado. Sì, infatti, non dico che è una follia, il concetto è un po' più delicato, ma l'abbiamo detto mille volte. Dai, semplifichiamo, diciamo che una follia. Se un bel giorno il buon Dio ha deciso di mandare il diluvio universale, avrà avuto i suoi motivi. Io credo che all'Inter sia momento di diluvio universale, perché non sanno più dove andare. Io capisco e seguo il ragionamento di Pierluigi, che non è aggiungendo errore ad errore che si possa rimediare le cose, però credo che un punto fermo bisogna farlo assolutamente. Cioè, mi sembra di aver capito che questo allenatore è un marziano su Venere, non è riuscito comunque a far capire ai giocatori, anche veramente per una questione di Babele, quale sia il suo concetto di gioco, che non ha capito che cos'è il calcio italiano e che probabilmente è stato sopravvalutato per quello che poteva essere il suo ambientamento in questo campionato. A sua discolpa va detto che naturalmente un De Boer non può essere chiamato la settimana prima dell'inizio del campionato italiano di calcio. Certo, persino Mourinho è stato avvertito da un presidente che si appresta a diventare, esatto, ex, che vive in Indonesia e al quale dell'Inter adesso ne può fregare di meno se non di pigliare i suoi soldi. Allora, io ho citato elegantemente Babele, ma potevo citare Sodoma e Gomorra, e soprattutto Sodoma. Cioè, in questo momento all'Inter cosa sta succedendo? Chi sta parlando a chi? Chi sta comunicando con chi? Chi sta decidendo cosa? Chi ha scelto questo e quell'altro? L'Inter aveva fatto addirittura una campagna acquisti assolutamente accettabile a sua insaputa, immagino. Dopodiché però non ha trovato un uomo, un leader a cui affidare. Qui ci vuole un vecchio saggio, ragazzi. Ci vuole un vecchio saggio, io sono d'accordo. Ci vuole un cincinnato. Io ho sentito parlare di Rea, ma perché no? Voglio dire, se abbiamo dato con tanta fiducia alla nazionale avventura, qui ci vuole veramente un navigatore che porti fuori dalle secche questa balena nerazzurra. Se continui a fare degli investimenti su persone che prima debbono capire dove sono capitate, su quale pianeta sono capitate, non uscirà mai. E che alla fine, secondo me, sono anche un po' presuntuose, perché è arrivato e ha detto: ok, adesso stracciamo tutto il passato, Mancini non mi interessa più, adesso si gioca il calcio che dico io. E quindi questo ha innescato un meccanismo praticamente perverso. È che lo dicevate ancora poco fa, cioè il calcio italiano ha pianto la sua povertà rispetto ai budget delle grandi società. Quando abbiamo i soldi in tasca, perché pare che abbiamo i soldi in tasca, pare che riusciamo ad avere le pezze nel culo, nella stessa tasca in cui c'è il portafoglio, quindi veramente non ci sappiamo più orientare. E quel che chiaramente fa più male a quello che accade all'Inter è naturalmente quello che accade simmetricamente al Milan, perché sono partite da situazioni che sembravano favorire l'Inter, almeno dal punto di vista dell'organico, non posso dire della coerenza, perché è una parola che è stata abolita dalla cinta muraria di San Siro, però alla fine il Milan ha scelto un allenatore, ha scelto qualcosa che assomiglia a un progetto, non so se per caso o per scelta o per filosofia, che è comunque puntare sui giovani. L'Inter cosa ha scelto? Va bene che si chiama internazionale, però ci picchia un minimo di logica, un minimo di razionalità. Marino, ti faccio sentire un'altra canzone, non aspettarti qualcosa di simile. Scendiamo un pelo più in basso, anche se è una cosa molto famosa. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. E detto un'enorme cazzata, perché ho detto scendiamo un pelo più in basso, perché con Giorgio Luca prima si parlava di Forever Young e io mi aspettavo quella degli Alphaville. Questo invece è il premio Nobel della letteratura Bob Dylan, che fra l'altro ma l'hanno trovato Bob Dylan? No, io questa cosa di Bob Dylan cioè, per me adesso bisognerebbe dargli un altro premio Nobel soltanto perché sta fuggendo al premio Nobel. Sì, cioè, sì, io, sì. E poi un altro premio Nobel perché non prende neanche il secondo. È straordinario. No, Forever Young è, cioè, io invece, mi tuffo su anche sulla sagra della castagna, vado se mi danno un premio, cioè, con tutto rispetto lo dico per i castagnari. E questo quest'altra meraviglia, no, invece si va su una delle squadre più con l'età media più giovane d'Europa, che questa sera dopo 669 giorni vittoria a Genova, non semplice, permettendo, tornerebbe ad essere prima in classifica, il che è impensabile. Si tratta del Milan. Marino, dai un voto. Io non ho ancora capito se è una cosa intenzionale o preterintenzionale quello che sta accadendo. Preterintenzionale. Quella che chiamava una volta via Turati, sinceramente ho il diritto di dimenticare come si chiama la sede del Milan in questo momento. In via Turati, sono rimasto, anzi ci sono anche abbastanza vicino, perché fra un po' devo andare in via Piranesi a vedere la presentazione del Giro d'Italia. Ragazzi, oggi nasce il centesimo Giro d'Italia. Lasciatemi pensare e sognare, per l'ammirazione che ho per alcune persone che comunque hanno fatto grande questo Milan, che ci fosse un minimo di intenzionalità, perché comunque quei ragazzi nel vivaio sono stati coltivati, alcuni giovani sono stati acquistati e alcuni lo scorso anno anche con uno sborso importante. Parliamo sempre di vivai, anzi non parliamo più di vivai, parliamo solo di cantera adesso, perché improvvisamente siamo accorti che le cose le fanno meglio gli altri copiandoli da noi, e i vivai sono diventate cantere. Però insomma, so di non dire nulla di originale, ma il grande miracolo Milan, quello di una trentina d'anni fa, nacque su due binari paralleli, che erano la valorizzazione del settore giovanile, con gente che non devo neanche ricordare, ricordo tanto Maldini per dirne uno, e Paresi per dirne un altro, e poi i soldi del mercato, e l'innesto delle persone giuste, cioè investire sui giovani ormai è provato, sicuramente paga di più che non investire sulle carampane, delle quali si devono vendere soltanto assolutamente le magliette. Cosa che il Milan ha fatto anche per un certo periodo, perché andava a prendere giocatori trentenni pronti per vincere subito, magari dimenticando trentenni. Sì, ma mi riferisco a qualche anno fa, ad esempio Stam, acquisti di questo tipo. Io do un voto altissimo a Filippo Galli, responsabile giocatore del settore giovanile del Milan, altissimo, perché sono 4-5 anni che il Milan gli ha messo a disposizione anche la moneta per ricostruire e riseminare, e i frutti li vediamo adesso. Devo dirti una cosa, ieri nella lunga intervista di Claudio Brachino, direttore di Video News, a Galliani, c'è stato un passaggio che mi è piaciuto molto, che è stato un passaggio su Mihajlovic che non mi aspettavo, non credo che fosse soltanto di facciata, però, nel quale Galliani insomma ringraziava Mihajlovic, sottolineava il fatto di Donnarumma e di altri giovani. Ecco, io credo che questo, al di là dei meriti di Montella, che la squadra è essenzialmente quella e Montella sta facendo molto meglio, però credo che l'anno scorso il Milan abbia iniziato un percorso, ha cambiato dall'anno scorso la propria filosofia negli acquisti, non è andata più a cercare le figurine come succedeva qualche anno fa, il colpo ad effetto, il parametro zero magari del giocatore un po' in avanti con l'età. Ha avuto l'anno scorso, ha fatto una grande campagna acquisti anche in termini economici, ha speso molto e ci siamo anche arrabbiati, abbiamo anche sottolineato che sembrava che avesse speso male, no? Romagnoli, Bertolacci, eccetera eccetera. Però un anno dopo vedi che le cose cominciano a quadrare. Poi il calcio è anche molto casualità, perché io credo che Milan-Sassuolo sia stata la partita della svolta. Il Milan quella partita la stava perdendo anche di brutto, l'ha vinta anche con le situazioni arbitrali, è inutile girarci attorno, però l'ha vinta, e da quel momento in poi è girato un po' tutto. Voto più alto in questo momento secondo me a Montella, non c'è dubbio. Un'ultima cosa, no? Non abbiamo più tempo, c'è la terza canzone. No, qual è la terza? La terza canzone è solo una battuta. Ma come, sono le 3:23? Ma abbiamo sono 2:23. Abbiamo anche Andrea Terza Meneghin. Canzone, abbiamo subito. Anche Andrea Meneghin. E la sente pure Andrea Meneghin. La sente pure Andrea Meneghin. È un altro grande capolavoro. Di quelle ancora. Questa è quella di prima. Aspetta. Lucia San Siro. Non siamo stati tutti. La so. Vai con la prossima. Vai la successiva. Gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi. Hai trovato o no? E se non mi trovi. No, aspetta. Chiamola. Se ti nascondi, se ti trovo, ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, troppo facile così. Ma questa terza canzone arriva? arriva. E corro veloce dalla mia strada. Vabbè. Anche se non è più la stessa strada. Il maestro, non è più Bartoletti, che gli facciamo sentire. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi. Ayrton Lucio Dalla, altro grande capolavoro. Ho provato a farmi venire in mente qualcosa sul moto mondiale, perché Marino, volevo chiederti della gara di Valentino Rossi. Prima discutevo fuori onda col mio compagno di banco Oscar Giannino, il quale diceva farebbe meglio a darla su, perché correre altri 2 anni contro quel mostro rischia di fare delle figuracce. Non sono d'accordo. Può avere altri obiettivi che possono essere centrare qualche vittoria, provare di nuovo ad arrivare secondo. Avrà comunque una moto competitiva. Domenica ha fatto un'altra gara straordinaria e io sono contento che rimanga altri 2 anni. Io sono molto dispiaciuto del fatto che non abbia vinto il mondiale quest'anno, l'ho già detto, perché lo meritava più di un anno fa. Quest'anno ho visto il miglior Valentino degli ultimi anni. Lo scorso anno ci stava arrivando un pochino per caso, quest'anno ha commesso degli errori di gioventù, una cosa assolutamente incredibile. Secondo me, guarda, cosa che non avrei mai detto un anno e mezzo fa, Valentino può ancora vincere un mondiale. E poi sai, e poi l'idea che abbia fatto quella gara il giorno in cui c'era da ricordare Simoncelli, giorno in cui Zanardi ha compiuto 50 anni, il 23 ottobre deve essere una festa nazionale ormai, credo. Secondo me vuol dire veramente qualcosa. Vi rimando con civetteria al post che ho dedicato a Zanardi e a Samarcanda, la canzone di Vecchioni, che racconta tante cose sulla nostra vita e con gli appuntamenti ineludibili della nostra vita. Grazie Marino, alla prossima. È un piacere, ciao. Piacere mio. Ridere ancora. Ora la guerra paura non fa. Meneghin, come va? Ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene, grazie. Tutto a posto. Ti abbiamo lasciato lì a sentire un po' di musica, insomma. Cosa che a Radio 24 diciamo che, non che, è... Che basket e musica sono due delle cose più belle. Basket, assieme alla cacio e pepe, direi, sono nel pantheon. Senti, Eurolega che è una spremuta di sangue. Stasera Milano gioca sul campo dell'Olympiacos e domani non entrerà nemmeno uno spillo alla faccia del turno infrasettimanale del campionato di calcio, caro Pardo. Perché a Milano c'è il Real Madrid. Due partite a fila. Esatto, due partite a fila, turno infrasettimanale dove questa Eurolega inizia a farsi sentire. Oggi con l'Olympiacos Milano può provare a vedere di raggiungere la testa della classifica, perché vincendo oggi andrebbe a 3 successi a fila dopo lo splendido successo contro il Darussa Faka e l'esordio positivo in casa col Maccabi. E poi il super sfidone con Real Madrid nel giro di pochi giorni. Tutte le squadre sono chiamate a un tour de force incredibile, tanti spostamenti, tanti viaggi, però l'intensità è sempre altissima. La commenti tu, tra l'altro, insieme a Gerry De Rosa domani, no? Su Fox. Allora, stasera c'è Olympiacos contro l'Olimpia Milano e poi giovedì sera, sempre su Fox Sport, c'è Olimpia contro Real Madrid. Foroni ti tratta bene, Marco? Benissimo. Se no lo mazzoliamo, non ti preoccupare. Molto bene. Senti, sì. ma il campionato italiano sta diventando come il campionato italiano di calcio, quello tedesco, tutti quelli che ho citato prima. C'è una corazzata nello stagno e gli altri fanno le paperelle. Quanto pare sembra proprio di sì. Milano ha un roster che tante squadre in Serie A si sognerebbero anche la panchina di quello che è a Milano. È stata costruita proprio per affrontare questo doppio impegno, che è un impegno dove tutti ci tengono, solo che le altre stanno cercando di avvicinarsi. Avellino è una di quelle, anche perché facendo l'Eurocup ha bisogno di un roster profondo. La stessa Venezia ha confermato un nucleo storico e sta cercando di raggiungere qualcosa. Reggio Emilia, una squadra che non parteciperà alle coppe, avrà forse più energia da poter spendere a preparare meglio le partite e a fare bene. E poi ci sono tante squadre che vogliono ritornare ai playoff, come Varese, come Cantù, vogliono essere protagoniste ancora. E ancora i livelli si stanno un po' definendo, però Milano è evidentemente fuori portata di tutte le squadre. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio. Pierluigi Pardo, buon viaggio verso Genova. Volevo dire ad Andrea di Modena che no, non me la dimentico quella cosa, tranquillo. Cosa? È una roba in codice, dai. Ah, va bene. Posso dire una cosa nel pantheon delle cose belle della vita? No, va bene. Già hai capito. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore. Ringrazio Andrea Roccabelli in regia e Alvise Falzoni in redazione. Ci sentiamo domani, subito dopo l'appuntamento con l'Europa, poco dopo le 14. Insomma, lo sapete, solita ora. Ciao.